punto, punto, punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Cari ascoltatori di Punto e a Capo, ancora un benvenuto, un saluto naturalmente da parte mia, Gigi Donelli al microfono, da parte di Fabio Cantadori in regia. Eccoci dunque a un altro sabato, a un altro fine settimana e qui chiudiamo in qualche modo, anzi non in qualche modo, lo chiudiamo proprio il mese di febbraio. La prossima settimana saremo già nel nuovo mese. Una settimana direi ricchissima di notizie, di avvenimenti sul fronte nazionale e internazionale, una settimana segnata fin dai primi momenti dai grandi temi europei e naturalmente la Grecia, la messa in sicurezza, ma anche le sofferenze e per certi versi anche la reazione in parte anche violenta, forte di un popolo di fatto messo alle strette da un piano di austerity molto duro che poi si scarica appunto su milioni di persone e lavoratori. Tutto questo, ma non solo, parleremo della crisi indiana, della vicenda dei Marò arrestati in India, delle iniziative del governo, affronteremo anche temi più lievi. Allora direi a questo proposito di cominciare questo nostro appuntamento partendo proprio da un graffio. I guadagni dei ministri e dei sottosegretari sono finalmente sul sito del governo. Meglio tardi che mai, tuona il senatore Lauro del PDL. Già, ma non potevano farlo prima loro? Se non lo dicevi prima! Come prima? Ma sì, se non lo dicevi prima! Ma prima quando? Ecco, questo era il nostro Dario Ceccarelli che ci permette di iniziare con un sorriso in fondo questa vicenda, anche per alcuni versi, alcuni aspetti piuttosto paradossale. Quindi viene fatta un'operazione di trasparenza, scopriamo che il nostro ministro della giustizia è un avvocato che fattura 7 milioni e ne paga 4 di tasse, insomma qualcuno ha trovato anche modo, diciamo, occasione, spunto per lamentarsi, sorprendersi delle ricchezze dei membri del governo e magari, come appunto ci ha ricordato il nostro Dario Ceccarelli, era forse il caso di apprezzare l'operazione trasparenza, un valore in sé. Chissà se questo esempio verrà portato avanti anche in futuro, non sarebbe male. Punto e a capo. Non vi sono garanzie di successo, ma la soluzione accettata anche dalla Germania sulla crisi del debito della Grecia è quella che offre maggiori probabilità di un esito positivo. Con questo messaggio il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble si è rivolto al Parlamento del Bundestag, al Parlamento tedesco, che lunedì dovrà approvare o meno la partecipazione della Germania al nuovo piano di aiuti appunto concordato in seno all'Eurogruppo. Un momento chiave, un altro momento, un passaggio essenziale di questa vicenda che però ci riporta proprio a inizio settimana una lunghissima trattativa che porta all'esito solamente alle 5 del mattino. Questo accade al termine di 16 ore di negoziato. Come ci racconta Sergio Nava, nulla appariva scontato fino alle ultime ore. Sentiamo. Una giornata ad alta tensione dove i dettagli tecnici per il nuovo piano di salvataggio della Grecia hanno costituito gli ingredienti thriller di un vertice prolungatosi in notturna. È vero, come aveva affermato il ministro delle finanze greco Evangelos Venizelos arrivando all'Eurogruppo, che Atene aveva fatto i compiti e che quindi contava di poter passare alla cassa, ma è anche vero che improvvisamente i conti non tornavano più. In serata un documento riservato redatto dalla Troica Europa BCE FMI indicava il rischio concreto che il rapporto debito-PIL di Atene possa esplodere al 100%. 78% nel 2015, per poi scendere al 160% nel 2020. Questo nello scenario peggiore, che potrebbe derivare sia da un aggravamento della recessione, sia quale risultato dei ritardi nelle riforme strutturali, ma anche lo scenario migliore non ha strappato sorrisi. In questo caso il debito si attesterebbe al 129%, comunque 9 punti sopra il target. La discussione tra i ministri finanziari, alla presenza del premier greco Lucas Papademos, si è così trasformata in un'ulteriore caccia al tesoro per individuare nuovi tagli e concessioni da parte degli investitori pubblici e privati per tornare agli obiettivi originari di bilancio. Proprio i privati hanno rappresentato lo scoglio più duro, la loro pazienza sulle perdite da accettare quale conseguenza della ristrutturazione del debito ellenico è ormai giunta al limite. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prestito sì, dunque, ma a che prezzo? La sovranità greca viene ceduta a Bruxelles? Questo è un po' l'interrogativo dell'alba, immediatamente successivo, appunto, successiva all'esito di questa trattativa. A 24 mattino ne abbiamo parlato con Vicky Marcacchi, giornalista ellenica, che abbiamo raggiunto ad Atene. In studio, tra l'altro, c'era anche il sindaco di Cava dei Tirreni, Marco Galdi, che è diventato molto popolare in Grecia dopo aver annunciato la cessione del suo stipendio in favore, appunto, del popolo ellenico. Ma sentiamo Vicky Marcacchi. È la sensazione quella che si tira un sospiro di sollievo oppure no? Per i politici sì, per la gente comune c'è un attimo di riassestamento. Stanno aspettando a capire che cosa significa tutto questo per la vita di ogni giorno. La vita di ogni giorno che è diventata molto pesante. Per quel che riguarda la tua domanda, per l'Italia aveva già pensato Celentano, allora magari il sindaco poteva già pensare alla Grecia. Il sindaco lo amiamo. Devo dire che in Grecia il suo gesto ha avuto un grande riscontro, non certo per i soldi, certo, ma perché quel slogan di siamo tutti greci, per ricordare semplicemente che non siamo solo quelli che hanno fregato l'Europa, non siamo solo questi che hanno fregato i soldi, ma siamo anche questi che qualcosa hanno dato a quell'idea dell'Europa. I greci ce l'hanno principalmente con i loro politici, forse ce l'hanno anche con loro stessi che hanno tollerato, hanno votato e hanno creato questa classe politica. Fatto sta che quelli sono. Sentirsi commissariati nella propria democrazia è una cosa molto molto pesante. Di questo parla, dunque, di commissariamento nella propria democrazia Vicky Marcacchi. Ma tornando invece al piano di salvataggio, appunto alle misure economiche, si tratta di una partita chiusa, la Grecia è dunque salva? Non esattamente, secondo Mario Deaglio, economista, ospite a Focus Economia di Sebastiano Marisoni. Credo che tutti sappiamo bene che questo piano nel lungo periodo non può tenere, ma insomma l'ammalato è stato operato, è stato rimandato in reparto, per il momento non corre rischi e poi Dio provvederà. Mi pare che la logica sia un po' di questo genere, i rischi sono un po' lontani, quando arriveranno c'è una specie di rinvio del problema principale, e cioè il problema, come lei diceva, è quello del funzionamento dei rapporti tra un paese membro della moneta unica e la moneta stessa, che lo ingabbia, gli toglie una parte della sovranità e gli impedisce di difendersi in una situazione di questo tipo. Ecco, quindi lei dice, se posso forzare l'analisi, è un po' come mettere la polvere sotto il tappeto, insomma, perché se il problema... Un pochino sì, sperando che insomma questo tappeto non debba essere scoperchiato per un po' di tempo e poi appunto nella storia le cose cambiano, chissà cosa succederà di qui a un po' di anni. Punto e a capo. Non toccate quel tappeto, verrebbe da dire, ascoltando appunto il professor Deaglio, ma dal tema internazionale, o meglio, che è sempre più difficile definire internazionali temi che riguardano l'Europa, e questo anche forse dà il senso della grande trasformazione che stiamo vivendo in questa fase di crisi. Comunque, dalla Grecia torniamo in Italia, lotta all'evasione e vantaggi per tutti. Questo è uno dei messaggi che il primo ministro Mario Monti ha cercato di veicolare con forza nel corso di questa settimana. Allora sentiamo un suo passaggio all'interno di un servizio realizzato da Vincenzo Miglietta. Potremmo forse venerdì, istituire un fondo nel quale far affluire i ricavi dalla lotta all'evasione. Di condoni non se ne parla, chiarisce il Presidente del Consiglio. I fondi dalla lotta all'evasione, dice però Monti, saranno usati anche per sgravi fiscali ed incentivi per i redditi più disagiati, cosa che potrebbe avvenire anche prima del 2014. Per un ristorno quantitativo dei benefici dall'evasione bisogna aspettare un momento. Questo era dunque Monti su questo aspetto. Intanto avanza per tutta la settimana la trattativa, ma anche il dibattito, le polemiche legate alla trattativa appunto sul mercato, sulla riforma del mercato del lavoro. Incontri a colazione per Monti con Berlusconi e il giorno successivo con Bersani, e proprio dal leader del PD arriva una sorta di richiamo, insomma, il leader del PD alza la voce di fronte all'idea che il governo possa andare a chiudere la sua proposta senza assicurarsi un accordo molto ampio. Bersani, dunque, lo sentiamo, seguito dal commento di Stefano Folli. Io ho sentito da molti giorni correre facilmente l'idea si può fare senza intesa, senza accordo. Io sostengo e dico attenzione, e non sto parlando di CGIL come si continua a dire, sto parlando di un accordo governo e parti sociali davanti a un paese che è in recessione. Queste dunque le parole di Bersani: mercato del lavoro da una parte, liberalizzazioni dall'altra, le nuove grane di Monti. Ne parliamo e lo ringrazio con Stefano Folli del Sole 24 Ore. Stefano, insomma, la situazione sta diventando un po' più complessa. Da un lato il terzo polo sulle liberalizzazioni, Bersani che oggi vede Monti, però continua a dire che insomma l'accordo ci vuole. Tu quale commento puoi trarre da questa fase abbastanza complessa? Sul mercato del lavoro la mia impressione è che Bersani voglia fare l'accordo, naturalmente, però si rende conto che questo accordo deve trovare la copertura delle forze sociali, dei sindacati nel loro complesso, e quindi siamo in un momento davvero difficile di questa trattativa. D'altra parte non riesco neanche a immaginare che davvero poi ci sia uno strappo di queste proporzioni sulla questione del lavoro. Il governo dice andiamo avanti lo stesso perché questo, diciamo, è anche una posizione di forza al tavolo negoziale, però è interesse di tutti riuscire a trovare una forma di accordo, naturalmente anche di Bersani. Spero ancora che sia possibile. E questo naturalmente lo scopriremo proseguendo in questo percorso, continuando a seguire questa cruciale trattativa. Questo era Stefano Folli al microfono di Anna Rita D'Ambrosio a metà settimana, proprio mercoledì intorno alle ore 13. Punto e a capo. Riguarda l'Italia fortemente, ma avviene in India. L'alta corte del Kerala nel sud dell'India ha accolto a fine settimana la richiesta indiana di annullare le accuse mosse dalle autorità contro i Marò, arrestati per il sospetto omicidio di due pescatori. Questo riferisce ieri il quotidiano indiano di Hindu, precisando che la Corte ha concesso una settimana di tempo ai governi locale e centrale per presentare una contromemoria. Nella richiesta presentata dal console italiano di Mumbai, Giampaolo Cutillo, e dai due militari, si afferma inoltre che la polizia del Kerala non ha l'autorità per condurre l'indagine dal momento che l'incidente è avvenuto in acque internazionali. A inizio settimana ne abbiamo parlato a 24 mattina con il generale Mario Arpino, già capo di Stato Maggiore della Difesa. Quando è cominciato questo fenomeno che è la pirateria anche nei riguardi di navi italiane, 2007, 2008, 2009, c'è stata una grossa spinta degli armatori perché il governo provveda in qualche modo. Ma gli armatori non chiedevano assolutamente di avere dei militari a bordo, gli armatori chiedevano di poter fare, come altre nazioni, affidamento su dei contractor a bordo. Ora, la legge italiana, questo sembra che non lo permetta, e c'è dovuta è servita una legge ad hoc. Io vorrei ricordare che la legge prevede esplicitamente che per quanto riguarda il loro compito di istituto, questi militari a bordo non sono dipendenti dal comandante della nave, quindi però in qualche modo, ecco, noi abbiamo fatto una legge che ha reso dei nostri militari ostaggio di qualcosa, di qualcuno. Io credo che questa legge andrebbe rivista. Ora abbiamo un ministro della difesa che queste cose le conosce molto bene e penso che cercherà, farà di tutto per elementare a monte questa possibilità che fatti del genere si ripetano. Restiamo nel subcontinente indiano con una sorte molto più drammatica, quella dei tre militari che sono morti lunedì scorso in un incidente stradale avvenuto nell'area di Shindad, nella parte occidentale dell'Afghanistan. Si tratta del caporal maggiore Francesco Currò, 33 anni, di Messina, del primo caporal maggiore Francesco Paolo Messineo, 29 anni, di Termini Imerese, e del caporal maggiore Luca Valente, 28 anni, di Gagliano del Capo, in provincia di Lecce. Tutti e tre i soldati appartenevano al 66esimo reggimento aeromobile Trieste, di stanza a Forlì, e ovviamente in missione in Afghanistan. Un quarto soldato è rimasto ferito ed è attualmente ricoverato nell'ospedale militare da campo, appunto, di Shindad, ferito, affetto tra l'altro da ipotermia. Il commento di Alberto Negri. Al di là della crisi economica e finanziaria, c'è un'Italia a rischio e che rischia la pelle ogni giorno. È quella dei nostri soldati schierati nelle missioni internazionali, operazioni difficili, dense di insidie, in scacchieri come l'Afghanistan, lontani migliaia di chilometri e di cui ci si ricorda soltanto a intermittenza. I tre soldati che hanno perso la vita nel ribaltamento di un blindato in un'operazione di soccorso non sono meno eroici di altri uccisi negli scontri a fuoco e negli attentati lungo le strade e le vallate dell'Afghanistan. Questa missione, dal 2004, ha inghiottito le vite di quasi 50 militari italiani. E dobbiamo sapere che i nostri resteranno laggiù ancora a lungo, almeno fino al 2014, data del ritiro internazionale, ma non dell'impegno militare a fianco delle forze afghane. Anche l'apertura diplomatica degli Stati Uniti e del presidente Hamid Karzai a una trattativa con i talebani non allontanerà i pericoli, anzi potrebbe rendere la situazione più complicata. Noi vorremmo dimenticare l'Afghanistan, ma l'Afghanistan non si fa dimenticare facilmente. L'Afghanistan non si fa dimenticare facilmente e ancora fino alla fine della settimana Kabul è stato il teatro di manifestazioni violente innescate dal rogo del Corano, il rogo di alcune copie del Corano avvenuto martedì nella base militare statunitense di Bagram, quindi la base centrale, quella che a suo tempo fu anche la base sovietica. Da lì appunto i disordini e nelle ultime 72 ore sono state uccise decine di persone, tra cui almeno due militari americani. Punto e a capo. Eccoci qua nella nostra terza parte dell'appuntamento settimanale con Punto e a Capo. Una settimana, l'abbiamo già detto, molto ricca, ricca di cronaca, di momenti anche drammatici. Uno di questi è stato senza dubbio mercoledì al Giglio, dove 41 giorni dopo il disastro della Costa Concordia è stato infine ritrovato il corpo della più piccola delle vittime del disastro navale. Sentiamo Raffaella Calandra. 41 giorni dopo il naufragio, la nave restituisce il corpo della più piccola. La procura indaga verso Costa Crociere e in un momento i riflettori tornano a riaccendersi sullo scheletro della Concordia. Erano quasi tutti lì, gli otto dispersi, su quel ponte 4 divenuto un pozzo nero quando la nave si è inclinata. Lì i sommozzatori hanno ritrovato pure Diana, la bimba di 5 anni che era in crociera col padre, lì proprio dove era stata vista l'ultima volta, come conferma l'avvocato della mamma, Davide Veschi. L'ultimo scossone fatto sì che la bimba e il papà scivolassero dove già era penetrata dell'acqua. Chissà se si sarebbero salvati se l'evacuazione non fosse cominciata solo 75 minuti dopo la collisione. Di sicuro ora le mancate comunicazioni alla capitaneria, quel ripetere che si trattava solo di un blackout, insieme agli errori di manovra, sono tra le accuse mosse ai sette nuovi indagati, altri quattro ufficiali che erano in plancia e tre manager Costa, il vicepresidente Urs Sprunger, il sovrintendente e il capo dell'unità di crisi Ferrarini, che quella notte parlò 10 volte col comandante Schettino. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore.

del suo ritiro. Punto e a capo. Un accordo internazionale in materia di lotta alla contraffazione e una minaccia, vera o solo presunta, alla libertà del web. Una novità arrivata a metà settimana da Bruxelles, raccontata dal nostro Enrico Pagliarini. Ladies and gentlemen, and allow me to update you very briefly on ACTA. È la voce del commissario europeo al commercio estero Karel de Gucht. Tema dell'annuncio, il controverso e criticato accordo internazionale ACTA anticontraffazione. Dopo le proteste sul web in numerose città europee con migliaia di giovani in piazza 10 giorni fa, la Commissione europea ha deciso di rivolgersi alla Corte europea di giustizia per verificare se l'accordo firmato è compatibile con il diritto comunitario e in particolare con la tutela dei diritti fondamentali e le libertà di espressione sancite dai trattati europei. Dell'ACTA si parla dal 2007, ma le trattative sempre molto riservate e portate avanti fuori dai parlamenti nazionali hanno sempre destato molti sospetti e oggi soprattutto molti giovani temono che in nome della difesa della proprietà intellettuale l'ACTA minacci la libertà sul web, allargando le maglie della censura. Per il commissario europeo non c'è nulla da temere perché per internet non cambierebbe nulla. Anzi, l'ACTA servirà a contrastare la contraffazione di merci, servizi e la pirateria informatica, dice il commissario. Comunque nel dubbio la Commissione si è rivolta alla Corte e in attesa del giudizio sono sospese le procedure di ratifica. Finora hanno approvato l'accordo il Consiglio, la Commissione e 22 paesi tra cui l'Italia, mentre tra i 5 che hanno preso tempo sollevando dubbi c'è anche la Germania. I principali paesi del mondo che hanno firmato l'ACTA sono Stati Uniti, Giappone, Canada, Nuova Zelanda, Australia, Singapore e Corea del Sud. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Insomma, nessun pericolo, almeno così sta la situazione descritta dalla Commissione. Prima di voltare pagina, prima di sentire insieme anche gli aggiornamenti per chi è in viaggio, una notizia per ricordarci che durante questa settimana è anche scattata la sospensione dei fondi all'Ungheria, un altro quasi tormentone di questo inizio anno. La Commissione europea dice non è una punizione ma uno stimolo per rimettere i conti in ordine. Gli ungheresi non la vedono esattamente in questi termini. Per chi fosse interessato a continuare il racconto di questo paese dell'Europa centrale, l'appuntamento è per questa sera alle 19:30 nello spazio di 30 minuti in cronaca. Punto e a capo. Ancora una volta cambiamo tema in questi ultimi minuti del nostro appuntamento di Punto a Capo. In studio ci ha raggiunto Carlo Genta. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao Gigi, buongiorno a te e a tutti. E dunque parliamo di una settimana che per alcuni è stata da cancellare, per esempio per noi interisti, ma in realtà una settimana sportiva ricca, cominciando naturalmente dalla Champions. Sì, settimana da cancellare, però sei anche un po' pessimista perché è vero, l'Inter è in un momento nerissimo, però una sconfitta a Marsiglia, il Marsiglia sinceramente non mi sembra una grande squadra. La sconfitta è arrivata nel modo corretto per il momento dell'Inter. Sì, cioè esatto, e forse questo è l'elemento che più... Mesi qui, esatto. Però è comunque un risultato ribaltabile. Assolutamente. Grandissimo il Napoli invece con, esatto, con il parliamo Chelsea. Di cose positive. Beh, il Napoli ha dimostrato questo suo spirito di Coppa. Già la settimana scorsa avevamo visto nella prova di campionato che la Coppa si stava avvicinando. Tutto sommato credo che i napoletani potranno ricordare con grande orgoglio questa stagione. Ha messo assolutamente una bella pietra. Tra l'altro partiti vanno sotto e come ormai vanno sotto, però quando giocano con quell'intensità lì, non dimentichiamo che il Chelsea è una squadra, è l'Inter d'Inghilterra, è una squadra in piena difficoltà, che ha problemi con l'allenatore. Insomma, non è una squadra tra le più in forma del panorama europeo. Certo, è una grande squadra piena di grandissimi giocatori e il Napoli ha confezionato un'altra sua impresa che adesso dovrà completare a Londra. Assolutamente. Complimenti dunque al Napoli. Dalla scena europea a quella nazionale siamo dunque ormai a poche ore dalla sfida che ormai tutti chiamano la sfida Scudetto. Sì, tutti la battezzano così, è un po' una frase fatta, un modo di dire. È certamente un confronto diretto parlare di sfide Scudetto quando siamo ancora a febbraio, secondo me è fuori luogo. Certamente potrebbe diventarlo, soprattutto se dovesse vincere la Juventus, secondo me. Juventus che, considerato il momento, parte anche favorita, ha vinto in Coppa Italia San Siro pochi giorni fa, ci crede, è molto compatta e ha tutti i giocatori, a differenza del Milan che, come sappiamo, ha assenze importanti su tutte, quella di Zlatan Ibrahimovic squalificato con la squalifica confermata, ma molto importante sarà anche l'assenza di Boateng, come ha confermato ieri Allegri, non sarà della partita ed è un giocatore importantissimo per il Milan. Potrebbe essere la serata di Pato, stasera tocca a lui, vediamo se il papero, dopo tante delusioni, riesce a risolvere una partita così importante. Vediamo insomma se si passa un po' da tante parole intorno a lui ai fatti. Solo una battuta: a parte Milan e Juve, le altre hanno in qualche modo lasciato la corsa? Sì, secondo me hanno lasciato la corsa Scudetto è tra Milan e Juventus, quindi è la classica partita che vale doppio, no? Soprattutto per chi vince. Dovessi giocarmela, non ho questa abitudine, però io vedo un pareggione, perché è troppo importante in questo momento non perdere questa partita. Ricordiamo che il Milan parte da 50 punti, la Juventus da 49, però la Juventus ha una partita da recuperare a Bologna, dunque è davvero un duello all'ultimo respiro. E San Siro sarà tutto esaurito, naturalmente. Beh, sarà una serata bella da vivere, comunque, io credo. Assolutamente, grazie a Carlo Genta. E a proposito di sport e di imprese, mi piace concludere questa giornata, che questa ora in cui raccogliamo anche quelli che sono i passaggi più interessanti della settimana raccontati alla radio, facendovi risentire un passaggio di un amico di Radio 24. Si tratta di Simone Moro, un grande alpinista che dimostra di essere grande anche quando si tratta di raccontare una rinuncia. Oggi cerco di non fare della demagogia, però quella della rinuncia, di essere stato in grado di decidere di venire a casa, lo considero ancora una volta un successo solo rimandato, e quindi lo considero parte del successo che spero che arriverà presto su quella montagna, perché l'ambizione, che è sacra, è il motore del mondo, non deve essere né cieca né sorda. Perché non c'è diritto o la possibilità di replica, non è come una partita, la perdo, vabbè, ne rigioco un'altra, no? Quando perdi la partita della vita è andata definitivamente. E questo ho voluto farlo innanzitutto perché una delle cose più importanti di un alpinista è quella anche di avere paura, perché la paura è quella che ti fa percepire i pericoli. Quindi chi pensa che un alpinista che magari tenti di scalare un 8000 d'inverno sia una sorta di Rambo, beh, ha sbagliato film, perché la paura di solito è sempre stato il mio alleato più grande, perché è quello che mi ha fatto percepire molte volte che valeva e doveva essere presa la pena di fermarsi, esattamente come è successo quest'anno. Questo però non va confuso con arrendevolezza, oppure uno dice vabbè è difficile, no, lascio perdere, perché allora questo diventa un alibi. Io sono uno che resiste, che lotta, che tiene duro, se c'è solo da sopportare freddo e fatica lì vado bene, sono un mezzo caterpillar. Però quando capisco che questo diventa uno sforzo solo muscolare, dove il cervello viene messo in stand by, diventa pericolosissimo. Quindi dopo 2 mesi di tentativi, utilizzando anche tattiche diverse, utilizzando anche la tecnologia che mi permetteva di avere previsioni meteorologiche, quando ha cominciato a nevicare abbondantemente per giorni, per settimane, e le previsioni mi davano altrettanto, e vedevo che la mia salita era più che altro una sorta di roulette russa, scappando da una valanga all'altra, beh, davo una dimostrazione di stupidità. Ecco, Simone, a proposito di valanghe, cosa vuol dire per uno che fa alpinismo al tuo livello capire quando la paura è troppa? Sì, è vero, e in effetti anch'io mi sono fatto questa domanda, ho detto Simone, forse non vale la pena smettere, forse basta, ti è andata bene, piantiamola lì. E allora ho cercato dentro di me i motivi per cui facevo alpinismo. E ho detto, ma perché tu sei qui in questo momento d'inverno a 40 gradi sotto zero? Fondamentalmente scalare le montagne mi rende felice, mi ha reso una persona serena, che non è un'espressione del volto, è un aspetto dell'animo. E essere sereno dal 1° di gennaio al 31 dicembre, con i chiari di luna che abbiamo noi oggi, beh, quella è una ricchezza che ho deciso di non mollare. Allora però fare alpinismo non è stato solo un atto egoistico solo per me, io sono anche sposato, ho due figli, e quindi ho detto, cosa insegno ai miei figli che vale la pena perseguire un sogno? Vero, ma morire per un sogno sarebbe un pessimo insegnamento. Quindi io vedo in questa rinuncia anche una forma di educazione. Quando mio figlio o mia figlia mi chiedono, ma perché sei tornato? È perché rischiamo di pagare il prezzo della vita con questo sogno. Beh, allora capite che l'alpinismo non diventa più solo fine a se stesso, ma diventa un mezzo. Un mezzo con il quale voglio anche insegnare qualcosa a chi mi sta attorno. E quello di lavorare duramente per un sogno, allenarsi, prepararsi, aspettare, saper aspettare, è un valore universale che non riguarda solo l'alpinismo. Ma quello di rinunciare è altrettanto un valore fondamentale se serve poi per rilanciare un grande successo. Ecco perché io non lo vedo come un fallimento. E neppure, grazie a Dio, i miei sponsor, che ormai sono cresciuti con me e hanno capito di far proprio questo tipo di messaggio. Quindi io la rinuncia non la vedo mai come da sfigati, ma la vedo da virtuosi se su questa rinuncia uno costruisce poi il grande successo successivo. Chiaro, no? Il messaggio di Simone Moro, e proprio con la sua voce, col suo racconto di una spedizione alla conquista, la prima invernale del Nanga Parbat, in invernale che immaginiamo rimandata al prossimo inverno. Concludiamo questa nostra puntata di Punto e a Capo. Ricordo e ringrazio in regia Fabio Cantadori, da Gigi Donnelli un saluto, l'augurio di un ottimo fine settimana a tutti voi. L'appuntamento con Punto e a Capo torna sabato prossimo a partire dalle 9:15 circa. A presto. We'll be right back.